io sono il demonio che viene qua a farti il culo a strisce. Sono Mister Nessuno, stupisce, me le mangio tipo Spartaco, ne premio 2-3 volte al giorno come un farmaco. La mia banda sbanca, nella disco arranca, sono sordo muto, se non ci sente bene facciamogli un saluto. Che tutta la disco comincia a ballare, questo è un piano magistrale, sublime registrato, sono Mozart, faccio AA con la A maiuscola, non scrivi mai minuscolo il mio nome. Come mai ti chiedi perché sono solo guai? Sarà che ho un dolore dentro che non esce, sarà che ti faccio il culo a strisce, sarà che su questa base sono peggio di Hitler, sarà che Mussolini è morto ammazzato, oppure strisciava suicidato dalla sua stessa peretta. Chiunque comandi muore in fretta, e io voglio di questa cosa essere chiaro, voglio alzare la testa, perché chi alza la testa muore. Diceva Falcone, sono Totori in al contrario, ma mica un poliziotto, sono la giustizia col bordo, faccio paura come una leggenda oscura, nella mia stanza mi osservano quei marra e pure paura, ci siamo dentro tutti quanti, io sono la reincarnazione di Andrea Pazienza, con dietro tutti quanti, alle mie spalle ci sono i miei fratelli, adesso facciamo gigante oltre natura. Volo su questa base, ho aperto la mia piazza all'area di un metro e mezzo, faccio fette, facciamo a metà, facciamo a mezzo, che col fumo no, mi sa, adesso arriva un buono. Giusta crema, strisciola, sbriciola, fanne una coca perfetta, tirala. Questa crema non è magica, non mi dà nausea, ma la metto in pausa lì da parte. Portami un burbuco ancora più buono, che questo qua si è buono. È meglio che voglio un burbuco che faccia saltare in aria tutto quanto. Voglio con scritto il mio nome fanno, voglio le riviste, le riviste, i politici, voglio gli assegni di tutti questi mediocri commentatori critici, voglio fare metri che strisci, che strisciano pure i fascisti, io voglio essere come Giuda reincarnato, sono qua nato, nella mia gabbia incollato, faccio questa musica d'asfalto, rimango qua come un incanto, manto, rivoglio tutto ciò che mi appartiene. Give cash, bitch. Se mi vedi con la mia banda, a tutti quanti la mancia sfalda, via tutta la mancia per noi, noi siamo i nuovi eroi, nuova famiglia, i nuovi nati, il mai nato al contrario, sepolto nell'armadio c'è il mio prof, voglio insegnarvi a tutti quanti, sono il vescovo, alzate le mani in curva, è una meraviglia osservare il calcio da qui, bitch, mio padre era un campione, mica una merda come quello lì.